Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Benvenuti alla quarta puntata di Il bene di tutti, parliamone, un programma che ci dà l'opportunità di vagliare con calma i grossi temi proposti in velocità dai TG, quali società, politica, economia e pace, alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Gennaio, da qualche decennio, è il mese della pace. Eppure, come ci ricorda il sito peacereporter.it, sono attualmente in corso 31 conflitti: Iraq, Israele, Turchia, Yemen, Afghanistan, Pakistan, India, Birmania, Thailandia, Cambogia, Filippine, Corea, Somalia, Etiopia, Congo, Uganda, Sudan, Repubblica Centrafricana, Chad, Nigeria, Cecenia, Colombia, Messico. E stiamo solo parlando delle guerre intese come guerre vere e proprie, senza contare il terrorismo, gli attacchi ai civili, le azioni più o meno sporadiche. Lo scorso 1 gennaio la comunità di Sant'Egidio ha organizzato in tutta Italia marce della pace. Il tema pace in tutte le terre. Ne parliamo con Alessandra Coin, responsabile padovana della società di Sant'Egidio. Ma prima leggiamo un piccolo brano tratto dalla Populorum Progressio del pontefice Paolo VI. Dalla Populorum Progressio di Paolo VI. Di gran cuore vi benediciamo e chiamiamo tutti gli uomini di buona volontà ad unirsi fraternamente a voi. Perché, se lo sviluppo è il nuovo nome della pace, chi non vorrebbe cooperarvi con tutte le sue forze? Sì, tutti. Noi vi invitiamo a rispondere al nostro grido d'angoscia nel nome del Signore. Siamo qui con Alessandra Coin della comunità di Sant'Egidio, grazie per essere con noi. Buongiorno, prego. Abbiamo letto questo breve brano dalla Populorum Progressio, La fine, nella quale Paolo VI arriva a definire lo sviluppo come nuovo nome della pace. Che ne pensa? Ma direi che naturalmente come si può contraddire Paolo VI? Siamo assolutamente d'accordo in questo senso. Penso che spesso nella povertà si insidui in modo più agile, direi, la forza del male, la cultura del conflitto e anche, se vogliamo, un po' della rivendicazione, ecco, da parte di chi è più povero, che può essere un popolo, può essere un gruppo di persone, può essere un singolo, proprio anche facendo leva su un desiderio di giustizia, di sviluppo, che spesso è accompagnato, desiderio di giustizia e di sviluppo, che spesso è accompagnato dall'idea, a volte vera, a volte no, che ci sia un colpevole contro il quale lottare e contro il quale anche arrivare ad aprire un conflitto in modo più o meno chiara, più o meno armata. Io vorrei dire anche però che la nostra esperienza, l'esperienza che ha maturato la comunità di Sant'Egidio progressivamente sul mondo, ci porta a comprendere come conflitto e povertà siano sì intimamente legati, ma forse si può rovesciare, diciamo, il discorso dicendo quella frase che noi spessissimo diciamo, che la guerra è la madre di tutte le povertà, cioè la guerra è distruttrice dell'impegno umanitario per il futuro di interi popoli, è, diciamo, assenza di ogni giustizia, come si vede anche in tanti paesi dove il conflitto rende proprio impossibile la difesa dei più basilari diritti umani, come succede in America Latina, come succede in Africa. Questa è stata la nostra esperienza, per esempio, in Mozambico, dove durante la guerra civile, su richiesta di un vescovo amico della comunità, vescovo mozambicano naturalmente, noi cominciamo a mandare navi, aerei, carichi di aiuti umanitari, che non so neanche come abbiamo fatto a caricare in quegli anni, erano gli primi anni Ottanta, che venivano come bruciati, divorati dalla guerra, come se noi non li avessimo mai mandati. Ed è stato così che abbiamo capito che era necessario sconfiggere questa guerra, per aiutare il paese. Ecco, quindi sviluppo, nuovo nome della pace, sì, guerra madre di tutte le povertà anche. Alessandra, lei è una delle responsabili del Sant'Egidio di Padova. Cos'è la comunità di Sant'Egidio e cosa fa concretamente per la pace? La comunità di Sant'Egidio è un movimento nella Chiesa che ha nel suo cuore l'ascolto del Vangelo e la preghiera, proprio direi preghiera come prima opera. E forse potremmo rispondere anche che il primo nostro impegno per la pace è proprio legato alla preghiera, preghiera di tutte le comunità, di tutti noi, preghiera comune, preghiera personale, tanto che da qualche anno ormai dedichiamo un giorno fisso al mese proprio alla preghiera per la pace. Ma vorrei poi ampliare il discorso, questa è la prima risposta, quella forse anche più, se vogliamo, più semplice, anche se si fa fatica a cogliere la forza vera della preghiera. In un recente libro che si intitola Fare pace, l'impegno della comunità di Sant'Egidio negli scenari internazionali, un libro curato da Roberto Morozzo della Rocca e edito da Leonardo International, sono raccolte tutte le storie, direi anche molto affascinanti, delle diverse iniziative di mediazione e facilitazione, se vogliamo così, della comunità di Sant'Egidio per la risoluzione dei conflitti. Quindi dal Mozambico, di cui ho accennato prima, dove abbiamo mediato le trattative di pace che sono durate 2 anni, fino ad arrivare nel 1992 alla storica firma della pace tra le due parti in conflitto. Pace che tuttora resiste nelle difficoltà di un paese che naturalmente deve attraversare tante strade per arrivare a maturare, diciamo, e mantenere questa pace, però pace ancora valida, insomma, ecco, ancora vera. Grazie Alessandra, ci prendiamo 2 minuti di pausa e torniamo dopo un breve stacco. Il bene di tutti, parliamone, rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati alla quarta puntata del Bene di Tutti Parliamone. Siamo in collegamento con Alessandra Coin della Sant'Egidio di Padova. Alessandra, quali sono i fattori importanti per la costruzione della pace? Ecco, difficile rispondere a questa domanda in poche battute, naturalmente. Ma dall'esperienza che viene da questo lavoro di cui parlavamo prima, questo lavoro di mediazione, di facilitazione dei processi di pace nella risoluzione dei conflitti, vorrei dire innanzitutto che la cultura del dialogo mi sembra che sia uno dei fattori principali, associata a un contatto umano intenso, quindi a delle relazioni umane vere, in cui si conosce l'altro, lo si incontra, sebbene anche teniamo presente che in certe situazioni l'altro può essere il cosiddetto nemico, può essere la persona che naturalmente non si comporta proprio secondo le regole della giustizia e della pace, ma è necessario incontrarlo, è necessario portarlo su un terreno comune, è necessario che le parti in causa trovino un contatto umano. Questo secondo noi vuol dire oggi essere pacificatori, e sentiamo che noi di Sant'Egidio siamo pacificatori, ma non solo nelle realtà di conflitto armato, ma anche in tante realtà di conflitto che per esempio attraversano la nostra società, conflitto tra generazioni, per esempio, di cui spesso si parla e che spesso si tende in qualche modo ad accentuare, mi riferisco per esempio al dibattito Padova città per giovani o città per vecchi, perché la dobbiamo porre sui termini di un conflitto generazionale? Noi crediamo che non sia così, anzi che ci sia un'alleanza tra generazioni da sviluppare, ma anche guardiamo a quello che è successo a Torino, per esempio, a questo tragico evento della folla che si abbatteva, diciamo così, rabbiosa su questo campo rom, ecco, ricordando anche forse tratti bui della nostra storia. Noi crediamo che ci sia da recuperare una cultura del dialogo e non del disprezzo. Anche enfatizzo la parola dialogo, ma enfatizzo anche la parola cultura. Purtroppo mi sembra che ci sia un grande vuoto di cultura, l'ignoranza non fa bene alla pace. È cambiata molto anche la cultura nell'aiuto dei paesi più poveri o dei paesi in conflitto, perché siamo passati negli anni dai doni a fondo perduto, dalle classiche collette che finivano lì, alla cooperazione internazionale. Ci puoi spiegare un po' il passaggio e anche la differenza sostanziale che c'è tra questi due modi di aiutare? Ma guarda, mi sembra, nella mia modesta esperienza personale intendo, che la cooperazione internazionale sia arrivata un pochettino a un minimo storico, ecco, di quello che è il suo impegno nei vari paesi in conflitto, e non solo nei paesi in conflitto, ma nei paesi poveri anche, diciamo così. E quindi mi sembra che da questo punto di vista si possa lavorare molto, e i paesi dovrebbero recuperare un po', i paesi intendo dire gli stati, dovrebbero recuperare un orizzonte largo su cui vivere il loro impegno. Questo nell'ottica proprio di una pace mondiale, della tanto auspicata e invocata sicurezza per ogni paese, e anche nell'ottica di una migliore integrazione tra popoli, diciamo, tra migranti, ecco, diciamo così, tra migranti e paesi ospitanti. Mi sembra questo un passaggio fondamentale a cui forse con scarsezza di visione, diciamo, con miopia, ecco, si lavora poco in questa direzione. Quindi, perché la nostra esperienza è che quando lavorano insieme diversi attori, che possono essere attori ufficiali, attori come appunto tutti i vari enti, istituzioni, stati, eccetera, ma anche attori non, diciamo, ufficialmente riconosciuti, come può essere la comunità di Sant'Egidio, come possono essere tante altre ONG che operano nel mondo per il bene, diciamo. Ecco, quando c'è una sinergia, sicuramente si possono portare a termine con successo tante mediazioni, tante facilitazioni, ma anche il bene di tanti paesi. Questa è la nostra esperienza, insomma. Quindi, secondo lei, in qualche modo comunque continua il classico aiuto a fondo perduto, e si punta ancora troppo poco sulla cooperazione? Ma io non metterei in antagonismo queste due cose, perché l'aiuto a fondo perduto ritengo che non sia qualcosa di negativo. Ce n'è ancora bisogno oggi, in qualche modo esprime la solidarietà e la generosità di tanti, e secondo me può essere proprio una base su cui poi costruire insieme agli stati che si aiutano, alle persone, ai paesi che si aiutano, qualcosa di più duraturo. Le due cose vanno di pari passo, non è che c'è troppo di uno e troppo poco dell'altro. Io direi che oggi c'è poco di tutto. Perché durante la crisi c'è questa cultura, non solo durante la crisi, ma la crisi si innesta in una cultura che già ti invitava ogni uomo, e quindi anche ogni paese, se vogliamo, a guardare a se stesso, a pensare al proprio, a pensare ai propri problemi. E quindi arriva poco di quello che tu chiami fondo gratuito, ma arriva poco anche di cooperazione. Invece penso in una visione un po' meno ripiegata su se stessi, un po' meno miope. Le due cose possono davvero aiutare il mondo a camminare nel solco della pace e dello sviluppo. La Chiesa che ruolo può ricoprire all'interno di questo cammino verso la pace e verso lo sviluppo? Perché proprio della pace la Chiesa ha cominciato ad occuparsene molto solamente nell'ultimo cinquantennio, da Giovanni XXIII in poi. Uh-huh. Per cui cosa può fare la Chiesa? Io penso che la Chiesa stia già facendo molto e possa fare molto. E Giovanni XXIII, che tu hai citato, amava dare, diciamo, un'impronta di metodo, se vogliamo, cercare ciò che unisce e non ciò che divide. Ed è su questa proprio sua affermazione che anche si è impostato tanto il lavoro della comunità di Sant'Egidio in questi anni nel mondo. Ma vorrei parlare anche della storica giornata mondiale di preghiera di Assisi, convocata da Giovanni Paolo II nel 1986, che ha portato poi a una serie di incontri internazionali per la pace, che penso hanno dato moltissimi frutti in questi 25 anni. Incontri promossi, lo dico insomma solo per ricordarlo, dalla comunità di Sant'Egidio di anno in anno in tante città del mondo, quindi dall'87, diciamo, fino ad oggi, l'ultimo di questi a Monaco. Nel messaggio che il Papa ha mandato è chiaro, diciamo, che la Chiesa Cattolica, diceva il Papa Benedetto XVI, intende continuare a percorrere la strada del dialogo per favorire l'intesa tra le diverse culture, tradizioni e sapienze religiose. Ecco, penso che il Papa ha insistito molto su questo da tanti anni, non solo Giovanni Paolo II, ma anche Benedetto XVI, indicando proprio qual è e quale può essere il ruolo della Chiesa e l'impegno di ogni cristiano nel mondo per arrivare a costruire la pace, ecco, a vivere, a imparare a vivere insieme gli uni a fianco agli altri, come ha detto il Papa, non solo gli uni con gli altri, ma gli uni a fianco agli altri. Grazie Alessandra per questa tua testimonianza, ma grazie soprattutto per il tuo impegno per portare la pace non solo nei paesi lontani, ma anche qui nei nostri quartieri, nelle nostre città. E grazie infinite. Grazie a te. Si conclude qui questa nostra quarta puntata del Bene di Tutti, Parliamone. Ricordo, giovedì 9 febbraio, nell'ambito del ciclo di incontri sull'etica civile promosso dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova e dalla Fondazione Lanza, alle ore 18 presso il Monastero di Santa Giustina si terrà un incontro con Don Carlo Molari, un teologo, spiritualità per un'etica civile. Se volete contattarci, mandarci una mail, consigliarci qualcosa, potete contattarci all'indirizzo redazione @bluradioveneto.it, mentre per ascoltare nuovamente le nostre puntate potete collegarvi al sito di Blu Radio Veneto o al sito della Pastorale Sociale del Lavoro e della Diocesi di Padova. Ci risentiamo nella prossima puntata e grazie a tutti. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.